GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. È un 44enne originario di Hong Kong, residente a Pistoia, lo snowboarder morto ieri pomeriggio sul Piancavallo. Oggi sarà effettuata l'autopsia per stabilire le cause del decesso. Si ipotizza una frattura cervicale a seguito di una caduta. Un turista di Firenze rischia di morire assiderato per una caduta nel laghetto dei pesca sportivi a Sappada. È stato salvato da un passante che lo ha aiutato a uscire dall'acqua con una cintura. Pronto soccorso ancora affollati. A Udine è entrato in funzione il piano emergenza per trovare spazi adeguati ai degenti. E le lunghe attese negli studi dei medici di famiglia sempre più affollati. Ancora 3 mesi di lavori per completare la messa in sicurezza della galleria di Montebello a Trieste, da completare il rivestimento con malta a impermeabilizzante drenante. Bilancio più che positivo per i commercianti degli acquisti natalizi. È andata meglio rispetto agli anni scorsi, sia nella grande distribuzione, sia nei piccoli negozi. Ieri sera al Politeama Rossetti di Trieste, il Galà dell'Operetta, ospite d'onore Red Canzian, la nostra intervista all'ex bassista dei Pooh. Basket, dato per imminente l'accordo con i nuovi investitori americani che entreranno nella compagine societaria della Pallacanestro Trieste, la APU cede Mian e acquista il Play Monaldi, che domani potrà essere schierato assieme a Gentile nei quarti di finale di Coppa Italia contro Cantù. 7:19 minuti e 40 secondi, buona giornata da Lorenzo Gherlinzoni e da Paolo Roncoletta. Anzitutto uno sguardo al tempo. Il cielo si presenta poco nuvoloso sulla zona montana, variabile sul resto della regione. Le temperature rilevate alle 7. A Trieste abbiamo 9 gradi e 3 decimi, quasi 9 gradi a Udine, 8 a Gorizia, 7 gradi a Pordenone, quasi 5 gradi a Tolmezzo, a Forni di Sopra 1,5 gradi, a Tarvisio 0 gradi, a Sappada meno 4, in quota abbiamo meno 2,5 gradi sul Monte Lussari, meno 1,5 gradi sul Monte Zoncolano, infine 10 gradi a Lignano e Grado. L'ARPA Friuli Venezia Giulia nelle prossime ore prevede cielo da poco nuvoloso a variabile su tutta la regione. Di giorno avremo ancora temperature miti per la stagione, lo zero termico si abbasserà però a quota 1500 metri. Iniziamo il nostro giornale radio con la cronaca, con notizie che provengono dalla zona montana. È un turista cinese di Hong Kong, di 44 anni, lo sciatore trovato senza vita sulla parte alta della pista nazionale a Piancavallo, ieri pomeriggio verso le 15:30. I carabinieri sono risaliti all'identità grazie alle chiavi dell'auto trovate nelle sue tasche. L'uomo era residente a Pistoia. A dare l'allarme sono stati altri sciatori che lo hanno trovato riverso sulla neve. Era privo di documenti e stava facendo dello snowboard. Non ci sono testimoni dell'accaduto. In un primo momento si pensava ad un malore, ma secondo un'ipotesi emersa ieri in serata pare che il 44enne sia morto per frattura cervicale come conseguenza di una caduta. Solo l'autopsia, che verrà effettuata questo pomeriggio, potrà dare risposte più chiare. Sarà importante capire se il decesso sia stato provocato da una caduta autonoma o da un incidente con un altro sciatore, anche se l'ipotesi più verosimile è quella della caduta autonoma. Ma la mancanza di testimoni rende più complessa la ricostruzione dei fatti. Le indagini sono condotte dai carabinieri con il coordinamento della procura di Pordenone, sul posto anche il soccorso pista del Piancavallo, il medico legale e l'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore. E ieri sono stati numerosi gli interventi di soccorso in montagna. A Sappada, un 57enne di Firenze ha rischiato di morire finendo nel laghetto di pesca sportiva Ziegelhütte, vicino al fiume Piave. Il fatto è avvenuto intorno alle 14. L'uomo, nel tentativo di aiutare il proprio cane che era finito in acqua, è caduto a sua volta nel laghetto, rompendo la superficie ghiacciata. Provvidenziale è stato l'intervento di un passante che lo ha fatto uscire con l'aiuto di una cintura, ma il turista toscano ha avuto comunque un principio di ipotermia dopo aver passato 10 minuti nell'acqua ghiacciata. Sul posto l'equipaggio sanitario dell'elisoccorso e il soccorso alpino. Le conseguenze per il 57enne sono risultate gravi e ha potuto fare rientro. Non sono risultate gravi, scusate, e ha potuto fare rientro al proprio alloggio. Altri interventi per cadute in pista sul Piancavallo, dove un 13enne si è ferito ed è stato portato all'ospedale di Pordenone, e a Sella Nevea per 2 sciatori che hanno riportato traumi non gravi. Nella zona montana l'elisoccorso è intervenuto per un ciclista ferito a seguito della collisione con un'auto avvenuta a Camporosso. Nello scontro il ciclista ha riportato diversi traumi ed è stato accolto all'ospedale di Udine. Non è in pericolo di vita. Si è concluso verso le 22 di ieri sera l'intervento dei vigili del fuoco di Trieste per lo spegnimento di un incendio divampato in un'abitazione in via di Romagna. A prendere fuoco era stato un appartamento al terzo piano di una palazzina. La proprietaria è riuscita a mettersi in salvo prima dell'arrivo dei soccorritori, ma non ha ancora potuto fare rientro nella propria abitazione a causa dei danni provocati dalle fiamme. Sul posto anche il personale sanitario e la polizia. Per il pronto soccorso degli ospedali regionali, i giorni delle festività sono caratterizzati da un sovraccarico di lavoro con conseguenti disagi per gli utenti e turni molto pesanti per i sanitari. A Udine è divenuta operativa la nuova organizzazione che prevede la collocazione di alcuni pazienti in altri reparti sistemati per la fase di emergenza. Ennesima giornata nera nei pronto soccorso della regione. La situazione peggiore si registra a Trieste e Udine. Nel primo pomeriggio erano oltre una sessantina i pazienti nei pronto soccorso dei due ospedali del capoluogo giuliano, con un'attesa media di circa 2 ore. Una quarantina al pronto soccorso di Monfalcone, sempre con la stessa attesa media, più di 60 a Pordenone, mentre erano 65 i pazienti in trattamento al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, che però può contare su 15 posto letto in più ricavati dal Day Hospital Medico del padiglione 8 a disposizione del pronto soccorso. Ultimato il trasferimento dei degenti del reparto in altri spazi dell'ospedale di Udine, pienamente operativo il piano previsto per lo stato di emergenza medico decretato la scorsa settimana. Spostate in altre strutture del Santa Maria alcune attività del Day Hospital di medicina, mentre quelle differibili sono state rimandate, come ci dice il direttore sanitario Luca Lattuada. Ad esempio, le broncoscopie che dovevano essere effettuate sono state fatte in un altro padiglione. L'ospedale di Udine si sta riorganizzando per dare una risposta migliore agli utenti. Luca Lattuada, direttore sanitario, azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. Lavoriamo al limite, senza nessuna riserva in panchina, per capirci, no? Per cui 10 giorni fa, oggi fortunatamente rientriamo, abbiamo dovuto trasferire alcuni letti di cardiologia perché il personale del comparto e alcuni sono diventati positivi. Ogni lunedì facciamo il punto del numero di pazienti, se scendiamo sotto il valore soglia sospendiamo lo stato di emergenza, pronti a riaprirlo in qualsiasi momento. Incessante e senza sosta il lavoro del personale sanitario per tentare di dare una risposta alle esigenze dei pazienti. I ritmi di lavoro, intendo, sono davvero stancanti e speriamo di tenere per tutto l'inverno. Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Influenza, sindrome di tipo influenzale, Covid. Sono tante le persone costrette a rimanere a casa tra febbre, tosse, raffreddore e mal di gola. Le conseguenze si vedono anche nelle sale d'attesa degli studi dei medici di famiglia. I casi di influenza, sospetti Covid, sindromi parainfluenzali stanno riempiendo le giornate degli ambulatori da 2 mesi a questa parte, ci dice Lorenzo Cociani del Sindacato Medici Italiani. La sintomatologia può essere più o meno impegnativa, dipende molto dal soggetto, molto individuale. Non bisogna preoccuparsi, basta recarsi o sentire il proprio medico per ricevere le opportune indicazioni. È chiaro che va escluso il Covid, la sintomatologia è molto simile, quindi è spesso opportuno fare un tampone per fare diagnosi differenziale e dopodiché seguire le indicazioni del medico. È utile però prevenire, cercare di prevenire la diffusione semplicemente adottando tutti quegli accorgimenti che abbiamo imparato ad utilizzare negli anni di Covid, quindi mascherine, distanziamento sociale e soprattutto quando si sta male cercare di evitare di uscire di casa in modo tale da far la propria parte ed evitare di spargere il virus. L'influenza, la cui ondata in calo, secondo i dati in possesso del laboratorio di riferimento regionale diretto dal virologo Pier Lanfranco D'Agaro, quest'anno si sta rivelando aggressiva, con febbre alta e sintomi persistenti, e i medici di base chiedono dunque molte più radiografie, approfondimenti strumentali urgenti. I malanni stagionali scandiscono le giornate anche nelle farmacie, dove stanno andando a ruba gli antinfiammatori Fans a base di un noto principio attivo. Per gli adulti, ci spiega il presidente di Federpharma Trieste Milani, si trovano medicinali generici o alternativi. Molto più problematico invece reperire lo sciroppo antinfiammatorio per i bambini, che scarseggia ed è contingentato. Trieste, Nada Cioc, TGR, Friuli Venezia Giulia. E ora parliamo dei lavori in Galleria Montebello a Trieste per la messa in sicurezza, lavori che dovrebbero durare ancora per 3 mesi e non oltre. Ad assicurarlo è il sindaco Roberto Di Piazza, a seguito dell'ultimo sopralluogo in cantiere effettuato insieme all'assessore comunale ai lavori pubblici Elisa Lodi. A oggi è stato già eseguito il 100% delle perforazioni e iniezioni strutturali di impermeabilizzazione, di contatto e consolidamento, nonché il 100% del rivestimento in spritzbeton e il 70% di quello con malta e impermeabilizzante drenante. Ma sentiamo il sindaco Di Piazza. Abbiamo verificato, ma avevamo già deciso così, che abbiamo 16.000 metri di volta, cioè la galleria ha 16.000 metri, e andiamo a coprire 11.000 di questi 16.000 con una copertura in plastica. Perché? Perché non si riesce a bloccare l'acqua che viene giù da secoli, da un secolo che sempre piove in questa galleria. E allora abbiamo tentato con il progetto di sprizzaggio di un materiale per bloccare, ma poi ci siamo resi conto che allora abbiamo fatto in pratica a fianco i canali di scolo e mettiamo questa plastica all'interno come un ombrello che servirà a bloccare, perché altrimenti l'acqua comunque d'inverno si sarebbe ghiacciata, avrebbe sforzato. È stato un progetto un po' travagliato questo della galleria di Montebello, che è andato... Drammatico, però alla fine bisogna avere il coraggio di risolvere. Questa è l'ultima proroga che diamo a questa ditta, perché adesso, ripeto, siamo alla fine, ormai l'impianto luce, le fognature, i marciapiedi sono stati fatti, adesso dobbiamo solo coprire la volta per evitare che piova. La proroga è al 30 marzo, probabilmente finiremo prima. Per i commercianti è tempo di bilanci delle vendite natalizie. Indicazioni positive arrivano sia dalla grande distribuzione, sia dai centri commerciali, sia dai negozi cosiddetti tradizionali. C'è la preoccupazione per le maxi bollette, ci sono i rincari, ma c'è anche la voglia di ritorno alla normalità e al Natale di qualche anno fa. Alla fine è stata quest'ultima a vincere, magari con un po' di oculatezza in più, sia nell'acquisto dei regali che nell'allestimento della tavola natalizia. Penso come gli altri anni, non sono riuscita a risparmiare. Ha trovato i prezzi più alti? Sì, questo sì. Sicuramente è aumentato tutto, quindi ho speso un po' di più quest'anno. Soddisfacente il bilancio per i commercianti. Stefano Minniti, direttore del centro commerciale Le Torri d'Europa. Positivo, molto positivo. E per quanto riguarda l'affluenza, c'è stato un crescendo che è andato dall'inizio di dicembre fino ai giorni della vigilia, soprattutto dell'antevigilia. Quest'anno abbiamo visto quindi un ritorno all'acquisto, alla fiducia del consumatore che è tornato da noi. Cala invece il valore degli scontrini. Leggermente abbassato. Non c'è stato il grande blocco, il grande freno che magari poteva esserci a fronte di questa della paura, del pericolo, delle bollette, di quelle che sono le spese energetiche. C'è stato comunque un acquisto, magari leggermente più basso, più mirato, però comunque c'è stato. Fulvio Bronzi, commerciante. Dopo aver passato 2 anni in modo difficile, penso che quest'anno possiamo essere solo che soddisfatti, contenti. Abbiamo venduto, la gente ha fatto i regaletti, magari più accurati, più attenti, ma insomma... Quello non è stato un grosso problema. La conferma arriva dagli acquirenti. Si cerca di risparmiare, certamente. Essenzialmente cose per la casa, qualcosa di alimentare per evitare di buttare via i soldi. Regali utili, sostanzialmente. Anche per il settore alimentare, il Natale ha segnato un ritorno alle vendite del passato, con un incremento degli incassi dovuto all'inflazione. E nessuno pare avere rinunciato alla qualità in favore del risparmio. Anzi... Fabio Bosco, titolare di supermercati. Quest'anno, per quanto riguarda la scelta sulla qualità, abbiamo notato che il pubblico l'ha cercata. Anche prodotti di un certo livello sono stati venduti come negli anni precedenti, se non forse di più. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Ieri sera al Politeama Rossetti di Trieste il galà dell'operetta, a cui ha partecipato anche Red Canzian. Il cantante e polistrumentista dei Pooh ha consegnato il premio Massimini a Gianmarco Schiaretti, interprete di Casanova Opera Pop, spettacolo teatrale ispirato alla vita del celebre avventuriero veneziano e musicato dallo stesso Red Canzian. Lo abbiamo intervistato. Io e mia moglie, che siamo produttori dello spettacolo, oltre che io come autore, siamo ben felici di essere qui, perché credo che mai un premio sia più meritato di questo. Gianmarco Schiaretti è il Casanova perfetto che noi ci stavamo cercando, che immaginavamo e che abbiamo trovato. è un ragazzo, un professionista assoluto, non a caso è tra i più richiesti performers in Europa, recita in 3 o 4 lingue, per cui è realmente un professionista fantastico. Intonazione perfetta, per me che ho scritto le musiche e che faccio anche il cantante, è molto importante. Professionalità, fisicità, recitazione, a tutto quello che un autore di un musical vorrebbe trovare in un suo performer. Nel mio musical, oltre a innamorarsi di una fanciulla perdutamente, per cui smetterà di essere il libertino che è sempre stato raccontato, Casanova diventerà una sorta di eroe che salva Venezia da un intrigo politico ordito dall'Austria attraverso la contessa von Steinberg, che cerca di approfittare dell'egocentrismo dell'inquisitore Garzoni, promettendogli di farlo diventare doge in cambio dell'annessione di Venezia all'Austria. Un'ultima domanda invece sul suo rapporto con Trieste. Adoro Trieste, Piazza Unità d'Italia e tutto quel lungomare meraviglioso che c'è ai lati della piazza, palazzi bellissimi, una storia fantastica. Mi piacerebbe venire presto a Trieste, non solo con il musical ai primi di marzo, che saremo qui con Casanova, ma venire presto anche a fare un mio concerto, perché adoro questa città. È una città della musica, una città europea della musica, Trieste. Ecco, hai detto giusto, è una città soprattutto europea, dove si respira un'aria internazionale e dove è bello stare. Continuano gli appuntamenti del periodo natalizio a Pordenone. Questo pomeriggio alle 15 in biblioteca civica, nella sezione ragazzi, si terrà il laboratorio per bambini Giochiamo a fare il Natale a cura di Eupolis. Alle 16.30 ci sarà lo spettacolo teatrale La Principessa sul Pisello, nella sede della Scuola Sperimentale dell'Attore di Via Selvatico. Infine alle 17 in Sala De Gande, la biblioteca civica, le letture animate per i bambini che Natale in città a cura di Orto Teatro. Concerto di Natale in ricordo del compositore friulano Olinto Contardo, questa sera alle 20.45 nel Duomo di Spilimbergo. L'apprezzata orchestra sinfonica Do La Miti Belluno, diretta da Matteo Andri, proporrà, oltre al repertorio classico e natalizio, alcune sofisticate composizioni sacre dello stesso Contardo. Il concerto è finalizzato anche ad una raccolta fondi per gli ultimi, sulla scia del valore e della sostenibilità, in particolare nell'ambito sociale con la mutua assistenza. A conclusione di un anno di successi e riconoscimenti, la giovane regista triestina Laura Samani torna eccezionalmente al Cinema Zero di Pordenone questa sera alle 20.45 e poi al Visionario di Udine domani alle 20 per una proiezione speciale del suo potente film di debutto Piccolo Corpo, un dramma aspro e misterioso, epico e viscerale, che ci racconta la stessa regista Samani. Piccolo Corpo parla di una ragazza che perde il primo figlio alla nascita. Siamo all'inizio del Novecento nella laguna del nord-est adriatico e secondo le credenze del tempo i bambini che nascevano senza respiro non potevano ricevere il sacramento del battesimo ed erano di conseguenza condannati al limbo. Quindi questa donna, che si chiama Agata, sa che potrebbe non rincontrare mai più l'anima appunto di sua figlia, ma viene a sapere che esiste un santuario sulle montagne dove si dice che i bambini possano essere riportati in vita al tempo di un respiro per ricevere appunto il battesimo e quindi avere un nome. E di conseguenza si imbarca in questo viaggio, in questa avventura diretta al santuario. Come mai una storia così particolare? Sono rimasta affascinata dal racconto effettivo di questi pellegrinaggi che erano reali, sono documentati e che accadevano nella nostra regione. Mi è stato raccontato da Aldo Morassutti, che era un rinomato ristoratore della Bassa Friulana, dell'esistenza di questi santuari e in particolare di Trava, che si trova in Carnia. C'è un messaggio che questo film vuole veicolare al pubblico di oggi? Quello da cui sono partita io come necessità di indagine era il fatto di capire cosa succede quando si è costretti e costrette a separarsi da ciò che si ama. Quindi in che modo si può attraversare questa separazione? Io spero sia un'occasione per ritrovare quello che è sacro a livello soggettivo, innanzitutto, proprio a livello personale, anche di piccolo e di privato. Quindi penso alla sorellanza è il fatto di essere caparbi, e caparbi è nel dire a voce alta quello che si desidera e di comportarsi di conseguenza, anche nel saper fare comunità. 7:37 minuti e 50 secondi, passiamo allo sport e al basket. Settimana di allenamenti senza soste per Trieste, che da lunedì 2 gennaio inizierà un trittico importante in chiave salvezza. Verona fuori, Scafati al Pala Trieste, Treviso ancora fuori casa. Nella seconda metà di gennaio partirà il girone di ritorno, che non riproporrà lo stesso calendario dell'andata con le tre sfide dirette alla fine, ma verrà, per così dire, rimescolato. La squadra biancorossa è reduce da un successo sofferto e prezioso a spese della quarta forza del campionato, la Dolomiti Energia Trento. Anche Treviso, Scafati e Verona hanno vinto lunedì tutte fuori casa, solo Napoli e Reggio Emilia sono rimaste al palo. La classifica rimane invariata, ultima Reggio con 4 punti, a quota 8 ci sono Verona, Treviso, Napoli e Trieste. Ricordiamo che retrocedono le ultime due negli scontri diretti, finora Trieste ha battuto Napoli e Reggio Emilia. Una notizia relativa al match contro Trento: Packer, uscito malconcio dopo una caduta, è stato sottoposto ad esami radiologici che hanno escluso un trauma cranico. Ulteriori accertamenti verranno effettuati al polso. E sul fronte societario è iniziato il conto alla rovescia per la formalizzazione dell'accordo che prevede l'ingresso dei nuovi investitori americani. Il termine è la fine dell'anno, mancano solo 4 giorni dunque. È il playmaker italiano Diego Monaldi, l'ultimo acquisto dell'APU Old Wild West, classe 1993. Monaldi è cresciuto cestisticamente nella Virtus Aprilia e successivamente nella Virtus Roma, prima di approdare alla Mensana Siena, con la quale ha esordito in Serie A nel 2010 a soli 17 anni, festeggiando in poco tempo uno scudetto, una Supercoppa italiana e una Coppa Italia. Poi i passaggi in Junior Casale, Viola Reggio Calabria e Proger Chieti, Gevi Napoli e Scafati. Nel corso della regular season realizza 9.46 punti, 2.54 rimbalzi, 3.62 assist di media a partita. Sia Monaldi sia l'altro neo acquisto Alessandro Gentile faranno il loro esordio in maglia bianconera domani a Cantù alle 20.45 nei quarti di finale di Coppa Italia di A2. Se ne va invece Fabio Mian, il cui contratto è stato rescisso per la stagione 2022-23. Ricordiamo che l'APU aveva comunicato appena 4 giorni fa l'uscita di un altro atleta, Federico Mussini. Domani nuovo test amichevole per l'Udinese. Siamo al calcio. Udinese che affronta alle 13 la Cremonese allo stadio Zini. Ieri la squadra bianconera ha ripreso ad allenarsi dopo 2 giorni di riposo a Natale e Santo Stefano. In mattinata è in programma la rifinitura prima della partenza per Cremona. Ed è ormai tutto pronto per l'11ª edizione della Vertical Race Ravascletto Zoncolan Memorial Rudy De Infanti, appuntamento da non perdere per gli appassionati dello sci alpinismo. Tutti in pista a partire dalle 19 per questo evento, che coinvolge sia gli atleti agonisti che i non agonisti. Il tracciato, di facile fruizione, parte dal piazzale antistante la funivia a Ravascletto, a quota 890 metri, e risalita lungo la pista Canalone Lavette fino all'arrivo nei pressi del terminal della funivia sul Monte Zoncolana, quota 1750, 860 metri di dislivello complessivo, quindi per uno sviluppo di 4 chilometri. 7:41 minuti e 15 secondi, iniziamo la nostra rassegna stampa. Medici di famiglia, aumenti dei pazienti, sospeso da Asugi, è il titolo principale di prima pagina del Piccolo di Trieste. Tra i richiami in prima, l'ipotesi di un rigassificatore galleggiante della SNAM nel Golfo di Trieste, si tratta di uno studio. In prima anche la fotonotizia richiamo per i 10 eventi del 2022 ritenuti più rilevanti dal quotidiano triestino. I richiami nella colonna di destra, il sopralluogo del sindaco alla Galleria di Montebello, la gestione del campo di calcio Ferrini, il montaggio del palco per lo show del veglione di San Silvestro e l'incendio di Via di Romagna. Nella pagina dell'Istria la notizia della morte a 98 anni di Bruno Petrali. In Italia divenne famoso perché era il telecronista del calcio a Telecapodistria tra gli anni 60 e gli 80. Le prime due pagine di cronaca cittadina sono dedicate ai carichi di lavoro per i medici di famiglia. All'interno di uno dei servizi il Piccolo riporta che ieri in serata il direttore generale di Asugi Poggiana ha sospeso l'aumento dei massimali di pazienti per ciascun medico in tutta l'azienda sanitaria Trieste e Isontino, in attesa del comitato aziendale, sperabilmente entro fine anno. Il titolo in prima pagina del Messaggero Veneto edizione di Udine è sugli aumenti in busta paga a partire da gennaio 2023 fino a 493 euro lordi in più l'anno, 317.000 i lavoratori interessati. La fotonotizia è dedicata alla magia del presepe di sabbia a Lignano, che è già stato visitato da 22.000 persone. Di spalla la cronaca locale col lutto a Premariacco per la morte dell'imprenditore Dino Ceschia. Il capocronaca di Udine ci parla della città che cambia, parcheggi, uffici pubblici e albergo, nuovi progetti per Borgo Stazione. Riaprirà l'Hotel Europa, al piano terra spazio per un presidio di polizia, asse tra istituzioni e privati. Ci spostiamo sul Gazzettino del Friuli, spesa medica, 125 milioni di rimborsi, il titolo in prima. La regione chiede alle aziende fornitrici di dispositivi sanitari di tornare una quota degli acquisti in eccesso. Il Gazzettino propone poi l'intervista al candidato sindaco del centro-sinistra per il comune di Udine, De Toni, che promette: apriremo 1.000 cantieri. Poi la cronaca, due donne ricoverate in gravi condizioni dopo un incidente stradale sulla A4. Infine, tutto pronto sull'Ussari per il grande ritorno della fiaccolata. Anche il titolo di prima pagina del Piccolo di Gorizia riguarda la sanità. Medici di famiglia apre l'ambulatorio per cure primarie. Tra i richiami in prima, lo stallo delle commissioni comunali per mancanza del numero legale, l'appello del sindaco di Cormons Felcaro per l'adesione alla comunità del Collio e a grado l'arrivo di una terza pompa che entrerà in azione in caso di acqua alta. La mostra dei presepi ospitata nel mercato coperto di Gorizia è la storia di una donna fuggita dalla guerra in Ucraina e che ora vive a Villesse. Capocronaca di Gorizia, il servizio transfrontaliero di noleggio biciclette che sarà gestito dal GECT. In prima di Monfalcone, l'apertura dell'ambulatorio per l'assistenza primaria che avrà sede nell'ex dispensario di Via Vecellio. Il Gazzettino di Pordenone, di nuovo, come il dorso friulano, titola sui rimborsi per le spese mediche. Poi però si parla anche della morte per un incidente sulle piste da sci del Piancavallo di uno snowboardista di nazionalità cinese, di cui vi abbiamo dato conto anche noi in apertura di Radio Giornale. A Pordenone, troppi rifiuti a terra dopo le feste di Natale e c'è un'impennata delle multe. La fotonotizia è su un'iniziativa della COP Itaca, che ha deciso di far diventare per 3 giorni l'ex convento di San Francesco capitale dell'empatia. L'iniziativa si chiama Mettiti nelle mie scarpe. Spazio quindi ai temi della sanità. Da gennaio arriva il primo ospedale di comunità. Torre sarà un vero e proprio laboratorio per l'intero sistema regionale. L'edizione pordenonese del Messaggero Veneto. In cronaca locale troviamo il nuovo ospedale che aprirà nel 2024, quindi la cassa integrazione alla Jacuzzi, chieste altre 13 settimane. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. Alle 11.10 la rubrica in friuliano Ue o Favelin D, che parlerà con Gianni Sergio Pascoli dello Scriptorium Foriuliense situato a San Daniele, nato dall'idea di rivalorizzare la scrittura a mano e la grafia che ha caratterizzato i primi amanuensi. Lo scriptorium il 1 gennaio farà infatti un salto qualitativo, assumerà 2 persone che hanno terminato il tirocinio inclusivo. Alle 11.20 circa andrà in onda A Volo Radente. Nella puntata di oggi affronteremo il tema dell'innovazione sostenibile, facendo il punto su quanto emerso nel corso di un evento inserito nell'anno europeo dei giovani indetto dall'Unione Europea, recentemente svoltosi a Trieste. In seguito conosceremo i principali progetti illustrati nel corso della COP27, che ha visto l'Ateneo di Udine in rappresentanza della rete delle università italiane per lo sviluppo sostenibile. Infine tappa Montenars, dove ad un'azienda agricola è stato assegnato il riconoscimento bandiera verde dalla CIA, Confederazione degli Agricoltori Italiani. I programmi regionali torneranno poi alle 13.30. Alle 7.46 minuti e 40 secondi termina la prima edizione odierna del giornale radio regionale, edizione che è stata redatta da Lorenzo Gerlinzoni e Paolo Roncoletta. In redazione ha collaborato Edoardo Veglia, assistenza tecnica in regia di Fastia Crismancis e Tommaso Vinoni. Vi diamo appuntamento alle 11.05 minuti circa per l'edizione flash e poi alle 12.30 per l'edizione meridiana. Vi ricordiamo che le nostre notizie proseguono sul sito www.rainews.it/tgr/fvg e sui profili social Twitter e Facebook di TGR FVG. Grazie a tutti per la cortese attenzione e buona mattinata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.